ko. Tapi kelan di maning cerita ni wis beto. Saat ikini riko wising ono di kawah wong liya. Jangan di kawal.